Letture di Radio 24. In Medio Oriente abitano 10 milioni di cristiani, il 5% della popolazione totale dei paesi dell'area. Dal 1995 possono guardare una televisione vicina al loro orientamento religioso. L'obiettivo, spiega il fondatore Terence Escott, non è attaccare l'Islam o fare proseliti, ma semplicemente migliorare la percezione del mondo cristiano nella popolazione musulmana. Una televisione cristiana per il Medio Oriente e il Nord Africa che tenga viva una minoranza sempre sotto tiro e attragga pure telespettatori musulmani. È questa la missione di Sat7, una rete satellitare fondata nel 1995, che da un paio d'anni si è rivitalizzata con 7 milioni di telespettatori abituali. Il quartier generale si trova a Nicosia, sull'isola di Cipro, e nel corso del tempo il network si è allargato a 5 canali che trasmettono in 22 paesi musulmani. Il più importante è Sat7 Arabic, che ha avuto punte di audience di 10 milioni. Il canale dedicato ai bambini, che fra Medio Oriente e Nord Africa sono 100 milioni, sta riscuotendo un grande successo. Sat7 trasmette anche in farsi la lingua parlata dagli iraniani. Nella patria degli Ayatollah, la minoranza cristiana è stimata oltre le 200.000 persone. La TV satellitare manda in onda programmi pure in Turchia, per 4 ore al giorno. I cristiani rappresentano oggi circa il 4% della popolazione medio orientale, spiega Kurt Johansen, il direttore dell'ufficio europeo di Sat7. Il resto degli abitanti conosce assai poco i fedeli e la loro religione, e spesso il cristianesimo è associato all'Occidente, di cui in genere gli arabi non si fidano molto. I cristiani in Medio Oriente sono calati in un secolo dal 20 al 5%. Oggi si stima che siano ancora fra i 10 e i 12 milioni, ma l'avanzata dell'Islam duro e puro, oltre agli attentati mirati, fanno temere che i cristiani si assottiglieranno a soli 6 milioni nel 2020. L'obiettivo della TV via satellite è raggiungere non solo il pubblico della minoranza che crede in Gesù, ma pure i musulmani. Un compito arduo in una regione vasta e a maggioranza islamica, dove vivono più di 200 milioni di persone e dove già trasmettono oltre 300 televisioni. Finora però il nostro impegno sta dando i suoi frutti, spiega il direttore della costola europea, che ha la sua base in Danimarca. Il palinsesto comprende talk show nei quali si trattano i temi della vita quotidiana e argomenti religiosi. Il cavallo di battaglia è rappresentato da film e documentari ispirati a episodi biblici, soprattutto perché in Medio Oriente il filone storico religioso è molto seguito. Nel 2007 è stato creato il canale per i bambini, che ha avuto successo con programmi ad hoc, che ricongiungono famiglie o rispondono alle domande in diretta dei più piccoli e aiutano i casi disperati. L'80% del palinsesto viene prodotto in Medio Oriente e la TV sta in piedi grazie alle chiese cristiane nei paesi dove trasmette, a cominciare dall'Egitto, patria dei copti, dove ha un audience di 2-3 milioni di persone. Ogni anno vengono raccolti 12 milioni di dollari in donazioni e dall'Italia Sat7 viene appoggiata dalla storica organizzazione cristiana Aiuto alla Chiesa che Soffre. Non affrontiamo mai temi di carattere politico, né ci occupiamo delle questioni interne al mondo arabo, sottolinea Johansen. E quando dobbiamo trattare argomenti controversi, come il ruolo della donna, siamo sempre molto attenti a non urtare la sensibilità dello spettatore. Molti cristiani, dalla Siria, nel bagno di sangue della guerra civile, all'Iraq che sta cercando la stabilità, si aggrappano alla TV di Gesù. Per tanto tempo, con mio marito e la nostra famiglia, non siamo andati in chiesa per mancanza di sicurezza, ha scritto Mona, un'irachena di 24 anni. Sat7 era diventata la nostra chiesa, che ci dava conforto nei momenti difficili. Il fondatore della TV, Terence Ascott, precisa: «Non attacchiamo l'Islam e presentiamo la fede cristiana in una maniera positiva. L'obiettivo non è convertire gli islamici, ma semplicemente creare un ambiente che sia meno ostile nei confronti dei cristiani. Neanche questo ci garantisce assoluta sicurezza», osserva il direttore per l'Europa di Sat7. Nonostante le buone intenzioni e una parte di spettatori anche musulmana, per molti una TV cristiana rimane una spina nel fianco, specie se vista da milioni di persone. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fausto Biloslavo «La TV dei cristiani oppressi piace pure in Iran», dal giornale di martedì 10 luglio. All'inizio venne considerato come un testimone, poi come un testimone scrittore, infine un testimone scrittore e chimico. Oggi, a 25 anni dalla morte, è chiaro che Primo Levi è stato uno scrittore di prima grandezza, senza ulteriori e inutili specificazioni. Lo conferma il libro di Andrea Rondini, Anche il cielo brucia, Primo Levi e il giornalismo, appena pubblicato. È il 17 giugno 2011 e sul palco di Villa Angeletti a Bologna, in occasione dei 110 anni della FIOM, Roberto Benigni parla del lavoro, della sua tutela e di quanto, se amato, rappresenti una delle migliori forme di approssimazione alla felicità su questa terra. E cita Primo Levi, le sue parole, per ribadire quanto il lavoro sia imprescindibile e necessario per caratterizzare uno degli aspetti fondamentali della dimensione umana. Un anno prima, il 10 gennaio 2010, dopo i tragici fatti seguiti alla rivolta dei lavoratori extracomunitari negli aranceti di Rosarno, è Adriano Sofri a guardare a Levi. Sulla Repubblica esce una sua poesia ispirata a Shema, invitando il lettore a considerare di nuovo se questo è un uomo, se chi vive tra un no e un no, chi stramazza un ciglio di strada, odora di kiwi e arance, conosce tre lingue e non ne parla nessuna, che contende ai topi la sua cena, che ha due ciabatte di scorta, faccia ancora parte della specie umana. Anche il cielo brucia, Primo Levi e il giornalismo, di Andrea Rondini, inizia così, e non te lo aspetti. Anche perché il titolo si presta a diverse interpretazioni, in quanto contiene in sé almeno tre possibili linee di sviluppo: l'attività giornalistica dello scrittore Levi, la ricezione delle sue riflessioni sull'uomo e sulla Shoah nel mondo della carta stampata, e infine la loro estensione ad altri fatti ed eventi della contemporaneità. Nessuna delle tre è assente, e Rondini, docente di forme della comunicazione letteraria all'Università di Macerata, le percorre tutte con sicurezza, secondo quello che una volta si sarebbe chiamato il buon metodo storico positivo, confezionando un lavoro che è una mappa ricchissima di informazioni su Levi e sulla sua sempre più vasta presenza nella stampa italiana. Il codice Levi, l'exemplum Levi, ha influenzato tanta parte del giornalismo di quest'ultimo quindicennio e molti, li cito a caso, sono i nomi che Rondini fa, da Gad Lerner a Corrado Staiano, a Barbara Spinelli, da Gianni Riotta a Paolo Mieli e Gian Antonio Stella, accanto ad altre firme come quelle di Adriano Prosperi, Stefano Rodotà, Roberto Saviano, Gustavo Zagrebelsky. Se prendiamo come termine di riferimento la pubblicazione a cura di Marco Belpoliti dei due volumi delle opere, dopo di allora il richiamo allo scrittore torinese cresce progressivamente di intensità, finendo per diventare quasi obbligato, ogni qualvolta si cerca di riflettere sui tanti e diversi modi in cui il potere e la sua concentrazione esercita il proprio dominio sulla società contemporanea, oppure quando si affronta il nesso strettissimo tra parole e responsabilità, o ancora quando ci si interroga sull'indifferenza come forma di collaborazione al male. Come Auschwitz è assurdo a paradigma sovrastorico di ciò che non deve più accadere, allo stesso modo le parole di Levi hanno acquistato valore universale di riflessione sul potere e sul male. Tutte le volte che il cielo brucia, il titolo del libro è la trasfigurazione di cosa è bruciato nello spazio, un articolo di Levi dedicato alla tragica esplosione dello shuttle nel gennaio 1986, ecco scattare il codice Levi. Così, archiviate definitivamente le discussioni su Levi testimone, testimone scrittore, testimone scrittore chimico, e una volta riconosciuto che siamo di fronte a uno scrittore di prima grandezza, il passo successivo è stato quello di entrare dentro al suo laboratorio e provare a scandagliare più da vicino i suoi libri di racconti, i suoi versi, la sua attività di saggista e di giornalista. Ed è proprio l'indagine su quest'ultimo aspetto, il Levi bravo maestro di giornalismo, di un giornalismo che svolge una funzione civile e vive di una memoria lunga, la parte più innovativa del libro. Per questo non c'è abbaglio maggiore di chi consideri Levi un reduce congelato nel suo eterno presente. Un'impressione che provò Liliana Cavani. Le sembrò che riuscisse a parlare solo di quel periodo della sua vita, come se fosse sempre rimasto là, nonostante tutto. Ma si era nei primi anni 70, ben lontani ancora da una marcata presenza pubblica di Levi, che diventa continua e crescente a partire dal febbraio 1975, quando inizia a collaborare in forma stabile alla stampa. È sufficiente tornare a leggere quegli articoli, uno di seguito all'altro, da quello scritto all'indomani dell'assassinio di Aldo Moro a quelli sul vino killer al metanolo, su Chernobyl, sugli esperimenti per la predeterminazione del sesso compiuti a Napoli dal ginecologo Raffaele Magli, per capire quanta passione per il presente, in tutta la sua concretezza e pesantezza, ci fosse in lui. E non mi riferisco soltanto al suo immediato e risoluto schierarsi in prima fila, insieme a Carlo Casalegno, Norberto Bobbio e Alessandro Galante Garrone contro il terrorismo, ma anche ad altre decise prese di posizione, come la richiesta di dimissioni del ministro della difesa Vito Lattanzio per la fuga da Regina Coeli del nazista Herbert Kappler, responsabile del massacro delle fosse ardeatine, oppure la sua sofferta ma convinta decisione di farsi promotore di un appello che appare il 16 giugno 1982 sulla Repubblica affinché il governo israeliano guidato da Menachem Begin ritiri immediatamente le truppe dal Libano. L'appello, concepito da Levi insieme a Moshe Kahn, traduttore di Paul Celan, venne firmato tra gli altri da Rita Levi Montalcini, Ugo Caffaz, David Megnaghi, Natalia e Carlo Ginzburg. E come documenta Rondini, Levi tornerà anche in seguito a chiedere il ritiro di Israele dal Libano e dai territori occupati della Cisgiordania e di Gaza, ma allo stesso tempo si mostrerà sempre piuttosto diffidente nei confronti dell'OLP di Arafat, da lui considerato inaffidabile e in declino. È un codice, quello di Levi, che non fa sconti a nessuno, e in primo luogo a noi stessi. Per averne una prova, basti leggere poche righe tratte da una conversazione con Corrado Staiano. Accade sovente di ascoltare gente che dice di vergognarsi di essere italiana. In realtà abbiamo buone ragioni di vergognarci. Prima fra tutte, il non essere stati capaci di esprimere una classe politica che ci rappresenti. Risalgono al maggio 1975, ma sembrano appena pronunciate. Avete ascoltato la lettura della recensione di Massimo Bucciantini «Come italiani abbiamo buone ragioni per vergognarci». Attualità di Primo Levi nei suoi rapporti con il giornalismo. Dall'inserto domenica, in allegato con il Sole 24 Ore, in edicola oggi.